per essere venuti. Questa sera parliamo di partecipazione, viaggio partecipativo. Sono con noi la professoressa Fiorella De Cindio, che è professore presso il Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell'Università degli Studi di Milano. Abbiamo poi il dottor Stefano Stottoni, esperto di processi partecipativi, e poi interverrà Salvatore Amura, assessore al bilancio e alla partecipazione del Comune di Canegrate, e poi ci sarà lo spazio per le vostre domande, per un dibattito, spero che ci siano molte domande, visto che oggi parleremo di democrazia partecipativa e bilancio partecipativo con degli esempi concreti di comuni che l'hanno applicato e che hanno avuto successo nell'applicarlo. La serata è organizzata da Amo la mia città, la lista di azione civica e da Fare Comune, e introduce Danilo Livia. Buonasera a tutti. Sì, questa sera è una sera dedicata al bilancio partecipativo, ma soprattutto alla grande scommessa della partecipazione, che è diventata, ho visto, anche parte integrante del programma del centro-sinistra. La grande scommessa della partecipazione per le amministrazioni comunali sarà quella di rispondere alla richiesta di partecipazione alle decisioni e alla vita democratica del Paese, che i cittadini hanno dimostrato in questi anni di volere. Bisognerà fortemente impegnarsi per costruire un nuovo modello di strutture amministrative intermedie che sia attento e pronto a confrontarsi con questa grande scommessa, che sappia comunicare ai cittadini in maniera facile e diretta, che favorisca l'abbattimento delle barriere burocratiche, che contribuisca a costruire tessuto sociale, relazioni e reti. Nel 1989, in una città del sud del Brasile, nello stato del Rio Grande do Sorto, Sul, Porto Alegre, ormai famosa per il Forum Social Mondiale, nasceva l'esperienza del bilancio partecipativo, che ha completamente rivoluzionato le modalità di partecipazione e accesso da parte dei cittadini alla vita democratica della propria città. Questa esperienza successivamente ha coinvolto centinaia di città e paesi in tutto il mondo e in quasi tutti i continenti, trasformando in molte situazioni la vita amministrativa e politica dei municipi. Elemento di attenta riflessione deve essere anche l'attenzione critica da parte del comune e dei cittadini a questa creatura portatrice di democrazia, per far sì che nel tempo si evolva, si evolvesse, arricchendosi di significato, costituendosi come modo in un processo di riforma vasto e articolato, che parte dalla proposta audace di coinvolgere i cittadini nelle scelte di natura economico-finanziaria che riguardano il loro territorio, non in virtù dell'essere elettori con un diritto formale, ma in forza della loro condizione di abitanti, che costruiscono e trasformano quotidianamente senso, economia, cultura, vivibilità e conviviabilità dei loro quartieri, della loro città, del loro Stato. Processi di questo tipo cambiano in positivo anche il delicato rapporto tra privato e pubblico. Nei decenni del neoliberismo abbiamo assistito al trionfo del privato, declinato in vari modi: consumismo, chiusura nell'interesse personale, familismo, evasione fiscale, ma anche sul versante opposto solitudine, frammentazione, esclusione. Sarebbe ora di riattivare e riapplicare quella rivoluzionaria intuizione del movimento delle donne degli anni 60 e 70, il personale politico. Le persone, uomini e donne, devono riflettere sul loro privato, i loro valori, i consumi, le strategie individuali e familiari. Troppo spesso la partecipazione viene praticata per dimostrare presunta disponibilità e modernità, con comportamenti spesso confusionali e mal organizzati. Occorre invece uscire da questa mistificazione della sovranità popolare e allo stesso tempo destrutturare una sovranità popolare totalmente fondata sulla delega. Occorre trasformare il livello prepolitico della partecipazione in diritto alla democrazia. Possiamo infatti mutuare i principi della Convenzione Europea di Aarhus, La Convenzione, attraverso l'istituto della partecipazione, riduce la discrezionalità delle scelte politiche amministrative, obbligando le istituzioni a prendere in considerazione le istanze di parte. Di tutte le forme di democrazia partecipativa, quella iniziata nella città di Porto Alegre in Brasile, appunto di bilancio partecipativo, rimane una delle più convincenti per tre ragioni principali. La prima perché la partecipazione è calendarizzata, con un forte senso di continuità temporale durante l'anno e non limitata a una semplice occasione. La seconda perché prevede un gran numero di luoghi e di livelli di partecipazione, dagli incontri di strada, in genere questo è un esempio di gennaio, al Consiglio di bilancio di settembre, nella solenne annata del bilancio partecipativo da parte del Consiglio Municipale e del Sindaco a fine anno. La terza perché è un processo, e questo è importante, non un momento, che contribuisce così alla formazione di un prezioso capitale per qualsiasi democrazia. Gruppi crescenti di cittadini informati, attivi e con idee chiare su che cosa costituisce una cultura democratica. Dobbiamo trovare, declinando in vari modi, la democrazia partecipativa, dobbiamo trovare la forza per portare avanti una vera rivoluzione culturale fatta di trasparenza e responsabilità. Autogoverno e processi partecipativi dunque, concertazione, patti sociali, condivisione. La nuova comunità che si forma nella concertazione di un progetto di futuro in una società locale complessa. La crescita dell'autogoverno di una società complessa richiede una cultura della comprensione e del riconoscimento dell'alterità come valore fondativo della relazione sociale e dell'arricchimento che lo scambio fra diversità può portare nell'interesse comune. Ma entrando più nel nostro tema, che cos'è il bilancio partecipativo? Lo delineo leggermente, poi lascio la parola e concludo. In termini generali, il bilancio partecipativo potrebbe essere definito come un processo decisionale che consiste in un'apertura della macchina statale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione, nell'assunzione di decisioni sugli obiettivi e la distribuzione degli investimenti pubblici. Si caratterizza come processo partecipativo di discussione sulle proposte di bilancio che si snoda durante tutto l'anno, fino a designare una proposta articolata per ogni anno di gestione successiva, sulla base delle richieste della cittadinanza. Esistono numerosi esempi di sperimentazione, fra loro diversi, a cui è possibile guardare con interesse. Il bilancio partecipativo non andrebbe considerato come uno strumento esclusivo per stimolare il senso attivo di cittadinanza e la partecipazione degli abitanti alle scelte concernenti i loro territori, di vita e di lavoro. Esso dovrebbe essere un componente del sistema della partecipazione cittadina, da coordinarsi con altre istanze di partecipazione di ambito reale o tematico, che coinvolgono i cittadini a monte o a valle di tutte le scelte che riguardano il proprio territorio. Il bilancio partecipativo è promosso a livello comunale dal sindaco e dalla giunta. Ma chi decide? Non vi è una revoca univoca. In genere si cerca di condividere con i cittadini la questione delle risorse con carattere maggiormente flessibile, ad esempio quelle destinate ad opere o servizi. Neppure la percentuale dei voti messa sul tavolo della discussione tra abitanti e amministrazione è insindacabile come fissa, seppure sarebbe auspicabile che si avvicinasse alla totalità delle disponibilità. In città come Porto Alegre la popolazione ha discusso persino il 100% delle spese di investimento e in opere di servizi, che risultano una componente percentuale annualmente variabile tra il 15% e il 25% delle spese comuni. In Portogallo, in periodo molto più recente, il bilancio partecipativo ha visto coinvolti i giovani riguardanti le spese loro dirette con risultati estremamente interessanti. Concludo questo mio breve intervento chiedendovi una riflessione che riguarda la nostra città, prima di passare la parola agli altri relatori. 30 anni di cosa? Oggi le paratie del Lungolago, il Sant'Anna, il San Martino, tutte le fabbriche disperse, la cultura, i giovani, gli anziani e la mobilità urbana. Voi pensate che un'amministrazione chiusa in un palazzo, cernezzi, fatta di riunioni, commissioni, gruppi o quant'altro possa dare delle risposte efficaci a tutti questi problemi? Grazie e buona serata. Danilo, Lilia, noi siamo verso la fine di un percorso, speriamo che sia una fine gloriosa, che è iniziato in realtà già da alcuni mesi, nel luglio dell'anno scorso, quando abbiamo cominciato ad incontrarci e a formare un gruppo auto-organizzato che abbiamo voluto chiamare Primarie Vere per Como, per chiedere chiedere al centro-sinistra, al PD, che è il partito più grande della coalizione di centro-sinistra, che si tenessero le primarie, perché all'inizio non era scontato. È un risultato che è stato raggiunto, sono tenute le primarie con 4 candidati, stasera abbiamo qua 2 dei candidati, mi sembra che non ce ne siano altri, il candidato vincente che è Mario Lucini, che sarà il candidato sindaco di tutta la coalizione del centro-sinistra, e poi Gisella Introzzi che è là che raccoglie le firme per la lista Amo la mia città. Poi questo gruppo ha continuato a riunirsi e dopo le primarie si è trasformato in Fare Comune, che è un altro degli organizzatori di questa serata, che è un po' un gruppo di democrazia permanente, di partecipazione democratica permanente dal basso. E in tutte queste riunioni si è parlato spesso di democrazia partecipativa, è uno dei temi che è stato più dibattuto. Finalmente stasera presentiamo dei modi concreti nei quali la democrazia partecipativa si è realizzata e si può realizzare e si sta realizzando. Allora io passo la parola alla professoressa Fiorella De Ciglio, che come anticipavo prima è professore associato presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Milano. La professoressa De Ciglio insegna materie come cittadinanza digitale e tecnocivismo, interazioni sociali in rete, progettazione e gestione del software. Sì. Le prime due, leggendo sul sito, mi hanno veramente stupito, perché cittadinanza digitale e tecnocivismo, interazioni sociali in rete. Interessante, la professoressa ora ci racconterà un po' di cosa si tratta. Lei si occupa di questi temi dagli anni 90, a quanto mi sembra di capire, vero? Quindi un pioniere, una pioniera di queste tematiche, e nel suo dipartimento il loro lavoro è sviluppare delle piattaforme informatiche per rendere più facile la comunicazione tra amministrazione e cittadini. Quindi vediamo un attimo come funziona. Grazie molto e grazie dell'invito. Che mi fa particolarmente piacere perché ho rispolverato una slide di un po' di anni fa, perché Como, io sono venuta a Como a parlare di queste cose, a provare a fare qualcuna di queste cose un po' di anni fa, quando Como era uno dei 10 comuni che avevano accettato di far parte del partenariato del progetto E21, che era un progetto nell'ambito del piano del governo di cittadinanza digitale lanciato dal ministro, allora dal ministro Stanca, ministro dell'innovazione e della tecnologia, e noi avevamo attraverso un'associazione informatica e reti civiche della Lombardia, costituita dalla regione Lombardia, presentato questo progetto per portare avanti con strumenti digitali l'esperienza dell'agenda 21. E Como era stato uno dei comuni che aveva accettato di stare nel partenariato. E poi esattamente dopo le elezioni, io ricordo perfettamente che Como fu uno dei siti che andò online prima di tutti gli altri, quando noi la piattaforma software che abbiamo sviluppato a partire da questo progetto non era ancora pronta, abbiamo fatto un po' di capriole perché si voleva metterlo online prima delle elezioni, in qualche modo per mettere la nuova amministrazione davanti al fatto compiuto. Nonostante questo, a Como e a Sesto San Giovanni, erano i due comuni alle elezioni in quel momento, in tutti e due i casi questo non è servito a molto, cioè la nuova amministrazione, tra l'altro in tutti e due i casi praticamente confermata, ma dopo le elezioni non se n'è fatto più nulla. Devo dire per sincerità, e poi vi spiego però perché vi do questo elemento, che anche gli altri comuni di questi 10 lentamente sono hanno smesso questa piattaforma, non hanno smesso la piattaforma, ma hanno smesso i processi di partecipazione. E dico questo perché in questi ultimi anni c'è stato, ma direi in quest'ultimo anno, cioè la partecipazione è stata la cifra l'elemento cardine delle elezioni, adesso sono determinati quest'anno a Como, ne state parlando, ma l'anno scorso a Milano, ma in tante altre città le elezioni, l'elemento della partecipazione è stato forse il fattore determinante per innescare il cambiamento. Noi stessi abbiamo cercato l'anno scorso di coglierlo lanciando un sito in occasione delle elezioni comunali di Milano. Adesso questo è un po' di screenshot del sito, vedete le varie liste, vedete uno strumento che c'era per permettere ai cittadini di fare proposte sulla città, un piccolo sketch sulla composizione dei partecipanti visi per lista, che è importante per dire anche che era abbastanza partecipata da tutta la città, cioè non era, e questo è un elemento che ci caratterizza appunto dagli anni 90. Noi cerchiamo di fare piattaforme civiche, cioè piattaforme per tutti i cittadini, in cui tendenzialmente tutti si debbano sentire a proprio agio e nella condizione di poter dialogare con gli altri, garantendo delle caratteristiche per queste piattaforme che siano, le ho riportate qui velocemente, che siano anche caratterizzanti un ambiente che, se non è direttamente nel nostro caso, è gestito dall'università e da una fondazione nata dall'università, quindi non è direttamente una piattaforma del Comune di Milano, e questo è un elemento che, se come mi auguro poi queste esperienze possono andare avanti dopo le elezioni, merita qualche attenzione, perché probabilmente non è sui server di un comune il posto migliore in cui fare partecipazione civica, cioè creare le condizioni di dialogo tra l'amministrazione. Non è neanche il posto migliore Facebook, per tante ragioni, perché non è stato pensato per quello, perché non si sa dove vanno a finire le informazioni, perché ha un ritmo troppo veloci, perché non abbiamo nessun elemento per capire l'identità di quelli che partecipano alla discussione. Quindi Facebook è un grande strumento, per esempio, in occasione di una campagna elettorale per far conoscere tutti i candidati, immagino che lo useranno. Però nel momento dopo, quando si deve governare, c'è bisogno di ambienti in cui prima si diceva la partecipazione informata, e in cui ci siano le condizioni per mettere tutti i cittadini nelle condizioni di poter prendere in esame una decisione del comune, confrontarla magari con quello che si fa in un'altra città, prendere dei documenti da internet e fare tre link e capire che cosa invece si fa a Londra. Faccio l'esempio di Londra, perché a Milano, per discutere dell'area C, le persone che cosa andavano a vedere? Andavano a vedere che cosa aveva fatto l'amministrazione a Londra con la congestion charge. Ormai internet, questo è. Per me che internet è un mondo molto grande, possiamo dire troppo grosso. Allora, creare degli ambienti intorno ad una città che consentano di raccogliere tema per tema le informazioni e le discussioni significative è un qualcosa che poi effettivamente consente, nel momento in cui c'è un'amministrazione e un governo, di favorire un dialogo tra chi amministra e i cittadini. Questo dopo il momento ovviamente gioioso dello scorso maggio, che ho recuperato anche ora qui, perché lasciatemelo fare come un elemento di augurio, sì, esattamente. Che cosa stiamo cercando di fare ora? Questo è il sito Partecipami, se andate su internet lo trovate, www.partecipami.it, ed è un sito in cui ci sono varie aree di discussioni tra i cittadini e l'amministrazione. Tre sono cerchiate, le ho lasciate cerchiate perché le abbiamo presentate sabato scorso in occasione di un evento che c'è stato all'Acquario a Milano. Questa è un'area che abbiamo aperto in collaborazione con l'azienda l'AMSA, l'azienda dei servizi della raccolta differenziata, raccolta dei rifiuti, ma è anche in generale su tutte le tematiche ambientali, che ha aperto un'area dedicata alla discussione sull'ambiente, e una discussione dedicata specificamente ai rifiuti, perché c'è in prospettiva di rafforzare i meccanismi di raccolta differenziata. Qua ci sono i video di Carlo Munguzzi, che è presidente della Commissione Consiliare Ambiente, e di Sonia Cantone, che è presidente dell'AMSA, che presentano questa iniziativa. AMSA ha scelto, dopo una lunga collaborazione, definitivamente di utilizzare questa piattaforma per dialogare con i cittadini. Perché? Per quelle caratteristiche che vi dicevo prima, quindi di, come dire, un ambiente adatto a una discussione corretta, seria, produttiva. L'altra area che abbiamo presentato, quindi proprio prendendo le ultime novità, che però credo siano abbastanza significative, questa è una cosa di cui andiamo molto orgogliosi, perché è la abbastanza neonata Commissione Consiliare Antimafia. Il presidente della Commissione Antimafia, Davide Gentili, e una consigliera comunale hanno promosso questa iniziativa di usare questo, uno spazio dedicato a questa commissione per presentare i documenti che vengono prodotti, le discussioni in corso. Quindi non una discussione generale sui temi dell'antimafia, ma seguendo come dire, puntualmente le attività della commissione, quasi gli ordini del giorno. Che differenza c'è rispetto a quello che succede sul sito del Comune di Milano? Che in genere sul sito del Comune di Milano, come di gran parte dei comuni, i cittadini trovano le notizie, i comunicati stampa e così via, difficilmente possono discutere. La differenza in questo caso è che ciascuna di queste aree, adesso non avevo il tempo di mostrarvelo, ma ciascuna di queste è una discussione su questo tema specifico. Quindi se si vogliono chiarimenti, se si vogliono fare un intervento, se si vuole inviare un documento, qui è lo spazio per farlo, e quindi davvero è uno spazio di dialogo tra amministrazione e cittadini. L'ultima novità che abbiamo presentato sabato scorso è questa mappatura del wifi a Milano. Oggi si parla molto di wifi libero nelle città. Ovviamente è una risorsa per una comunità, specie per esempio quando una città come Milano, come anche Como, anche delle caratteristiche turistiche, per cui ci sono persone che possono arrivare e avere bisogno di una, quindi è un elemento di valore, vi dico, per frequentazione di molti paesi all'estero, che i turisti, e anche perché per il fatto di ospitare come università parecchi stranieri, che l'avere a disposizione un wifi libero e tutto uno spazio è un elemento assolutamente come dire, di valore, che valorizza una città. Non è neanche detto che lo debbano fare necessariamente le pubbliche amministrazioni, si può anche fare un po' dal basso, ci sono iniziative commerciali, ci sono iniziative di gruppi di cittadini. Allora in questo sito noi ci limitiamo a dire ai cittadini: mappate i punti di wifi che ci sono nella città, in modo che se io devo andare in uno di questi so che posso usufruire di una connessione wifi e ho gli elementi anche qui, cliccando sull'iconcina, le informazioni necessarie per sapere come devo fare per collegare. Questo attualmente non c'è, speriamo, qui come al solito è un problema anche di risorse, ahimè, di questi tempi scarse, perché ovviamente una cosa di questo genere sarebbe bello averla anche sul proprio cellulare, quindi avere anche sul proprio smartphone chi ce l'ha, e ovviamente questi servizi sono particolarmente significativi poi per chi ha anche questi device mobili, la possibilità di vedere questa mappa e magari di poterla aggiornare. Vi ho fatto questi perché sono un po' di esempi concreti di che cosa ci si può fare. Un altro interessante è questa sezione eventi, tutte prese dal nostro sito. Allora, i giornali, i media tradizionali spesso contengono notizie dei grandi eventi di una città, di quelli che meritano attenzione. Poi magari ne raccontano il sabato per l'evento che comincia il venerdì dopo. E io quando decido, ma so che venerdì ho letto sul giornale, ho sentito alla radio che c'è qualcosa che succede e non me lo ricordo più. Quelli grandi li troviamo di nuovo sul sito del comune. Ma le nostre città, una città anche come Como, è spesso piena di piccoli eventi, per esempio la riunione di stasera e quelle che ci saranno anche dopo, che sono organizzate da associazioni, da cittadini, da piccoli gruppi, un gruppo culturale, una cosa di questo genere. Spesso si perdono nella comunicazione che esce sul giornale locale un giorno, ma il giorno in cui c'è poi non sappiamo più ritrovarlo. E quindi anche qui vedete che questi eventi sono segnalati da un'associazione, da un consiglio di zona, da due privati cittadini. Quindi c'è la comunicazione significativa per una comunità locale in cui un cittadino informa gli altri. Ma ci può essere un corso di cucina o un'iniziativa per bambini, esattamente allo stesso modo. Quindi sono i cittadini che si informano tra di loro. e possono interagire e parlare con il sindaco. Qui è un piccolo screenshot per mostrarvi le attività che l'assessore Castellano, che è un assessorato difficilotto perché quello è lavori pubblici e case edilizia popolare, queste sono tutte, su una parte anzi, delle risposte che dà online con, ai cittadini che chiedono notizie. Ma non è un rispondere, è un intervenire in una discussione chiarendo le idee, dicendo qual è la linea dell'amministrazione. Quindi non è l'ufficio, non è lo sportello, è proprio, come giustamente un assessore il suo compito di fare, cercare di spiegare una determinata politica, non intervenire invece sulla piccola questione. Ecco, con questo vi ho dato un po' un'idea di quello che facciamo a Milano, appunto, ormai lavorandoci da tanti anni. Credo che questo, per legarmi al tema della serata, sia il contesto appropriato per lanciare iniziative di bilancio partecipato, cosa che in realtà noi speriamo di poter fare con questa amministrazione. Stefano Stortone è stato a Milano a un'iniziativa che abbiamo fatto all'assessorato alla cultura a fine gennaio, proprio con l'idea di lanciare esperienze di bilancio partecipato nella città. Una città come Milano pone difficoltà maggiori per fare esperienze di questo genere, quindi probabilmente si tratterà di cercare di farlo a livello di consigli di zona, quindi del decentramento, che ahimè in questo momento sono dei luoghi abbastanza problematici per le vicende politiche della città, però insomma speriamo di poter farlo. Sicuramente io credo che una città, una realtà come Como, offra invece probabilmente un ambiente più adatto, e penso che se il bilancio potesse essere collocato in un contesto di partecipazione ampio, sicuramente sarebbe come dire, un processo da questo punto di vista facilitato. Quindi rispetto alle tematiche del bilancio partecipato mi fermo qui, perché poi penso che Stefano Stortone vi racconterà molto più nel dettaglio le esperienze che ha fatto e che noi stessi stiamo considerando un po' come un punto di riferimento per poterle portare nella nostra città. Sì. Grazie alla professoressa De Cindio. Mentre Stefano Stortone si prepara con il computer, volevo chiedere alla professoressa la prima domanda che mi è venuta in mente è quante persone stanno dietro a una piattaforma di questo tipo e chi la modera? Allora sono tutte moderate, la discussione, la nostra scelta dall'inizio è di moderare, è tutta rigorosamente moderata. Quante persone stanno dietro? In questo momento, allora, il soggetto che la gestisce è una fondazione, questa fondazione di partecipazione, che ha un direttore e due persone, cioè c'è un responsabile, una persona che è il community manager che modera tutto, e un responsabile della parte tecnica. Quindi risorse davvero piccole, risorse davvero piccole rispetto ad un impegno anche economico. Non c'è bisogno, ovviamente l'investimento della piattaforma software è stato fatto, è una piattaforma open source, quindi da questo punto di vista è disposizione. Adesso, e lo dico perché nella presentazione prima ci siamo presentati con il collega del Politecnico, sta partendo un'esperienza di questo genere a Genova in occasione delle elezioni comunali di Genova e da parte dell'università anche lì, perché la tradizione di queste esperienze di comunità civiche online, l'esperienza americana, questo appunto ancora degli anni 90, dicono che l'università un po' come terreno neutro può essere un posto giusto per farle nascere germogliare. Quindi se i colleghi vogliono, noi siamo solo contenti che altre università ci affianchino in questa sperimentazione. Fatelo bene voi, fatelo voi. Bene, grazie. Invito quindi a parlare dottor Stefano Stortone, che è esperto di processi partecipativi, è autore, coautore, assieme a Salvatore Amura, di un libro che si chiama Il manuale del buon amministratore, che sarà poi distribuito gratuitamente a tutti i candidati, a un buon prezzo, diciamo, a tutti i candidati della coalizione di centro-sinistra. Guarda, abbiamo annunciato però. avete rinunciato bene. È un bel librettino, edito da Altra Economia se non sbaglio, e ancora quando è stato pubblicato nel 2005? L'anno scorso. E quindi ottima lettura, e è un manuale per gli amministratori o chi si candida a diventare amministratore, come? E per i cittadini attivi. Stefano ci parlerà di processi partecipativi, ne ha seguito in particolare per la rete del nuovo municipio, che poi ci spiegherà come funziona e che cos'è, presso il comune di Calegrate e presso diversi enti pubblici. Prego. Allora, cercherei di stare in tempi brevissimi, andiamo a fare così a generare un po' più di discussione. Quindi, il materiale l'avete già in mano, chi non dovesse averlo, qui c'è qualcosa e dietro nel tavolino in fondo anche. Diciamo che Danilo praticamente ha detto tutto quello che si doveva dire di bilancio partecipativo, ha spiegato proprio tutti gli aspetti che ritroverete nelle slide che ho preparato, e sostanzialmente quindi ci ritroverete. Io parto con questa slide perché è un pochettino là della testa attorno, si dice, no? Si dice così, no? E cioè, l'idea di bilancio partecipativo, perlomeno da quella idea in cui credo io, credono molte altre persone, è partire da un'idea di partecipazione come decisione, perché ci sono tantissimi processi, tantissime iniziative anche sparse in Italia, nel mondo, dove sostanzialmente si chiede al cittadino di dare un'opinione, no? Di dire cosa sarebbe necessario fare, ma con il rischio di mantenere una frammentazione alta, perché sostanzialmente i cittadini hanno lo sguardo rivolto verso gli amministratori, ma non hanno mai lo sguardo rivolto tra di loro, no? E partecipare inteso come decisione, con dei meccanismi, dei metodi particolari, come vedremo adesso, hanno l'obiettivo quello di creare coesione sociale, di creare aggregazione, quindi di rivolgere lo sguardo non più verso l'amministrazione, ciascuno col suo orticello che chiede magari un pezzettino di terra, ma sostanzialmente guardarsi in faccia e dire: beh, qui le risorse sono poche, quindi già entriamo in un tema molto caldo, le risorse sono poche, le cose da fare devono essere centellinate e prioritarie, guardiamoci in faccia e scegliamo cosa fare quest'anno, scegliamo cosa fare domani, scegliamo cosa non fare, perché sostanzialmente il bilancio partecipativo significa partecipare su delle risorse. Le risorse non sempre, non sono mai infinite, quindi inevitabilmente la democrazia subentra in questo processo fondamentale, perché ti dice: bene, bisogna prendere decisioni che sono ispirate maggiormente al bene comune. Ora, anche qui questa definizione è ben articolata da Danilo, quindi è un processo istituzionalizzato, fondamentale questo aspetto, attraverso il quale i cittadini individualmente, attraverso le proprie forme di aggregazione, decidono direttamente come spendere le risorse pubbliche, le risorse del bilancio pubblico, le risorse pubbliche del bilancio. Ovviamente il riferimento è anche qui a Porta Alegre, perché l'esperienza da cui è nata questa invenzione, è interessante chiamare le cose con il nome, cioè è stata un'invenzione vera e propria, nata da un'esigenza di uscire da un modello di delega, di rappresentanza spinta e soprattutto anche di un sistema di regime dove la democrazia era fittizia, no? E passare a una dimensione più attiva, quindi non più delegare la decisione sul bilancio a altre persone, ma decidere direttamente come spendere appunto le risorse per i propri quartieri, per il proprio territoriale e per i temi più cari. E quindi diciamo l'esperienza che abbiamo sviluppato a Canegrato con Salvatore, e adesso stiamo cercando di riprodurre anche con una veste un pochettino più strutturata, abbiamo qui a Cascina in provincia di Pisa, a Cernuscolo Cardone qui in provincia di Lecco, e speriamo anche con la provincia di Resurbino, quindi in dimensioni provinciali, si rifanno un pochettino quella logica, che sostanzialmente però l'abbiamo un pochettino rivisitata, inventata anche un po' per il contesto in cui si opera, cioè non stiamo in Brasile dove c'è la mobilitazione è elevatissima perché c'è una situazione di emergenza, rimane una situazione di emergenza in Italia, ma non c'è ancora il livello di mobilitazione così come è stato in Brasile. Bisogna ricostruirlo, e per ricostruirlo sostanzialmente bisogna partire da aspetti su cui a me piace molto concentrarmi, cioè la felicità come due pilastri fondamentali, cioè rendere la partecipazione facile, non più una cosa difficile, pesante, molto impegnativa, ma cercare di creare dei meccanismi dove la partecipazione sia facile ma al tempo stesso sia reale, effettiva e con una certezza deliberativa e una chiarezza sostanzialmente per quanto riguarda il potere decisionale dei cittadini. Come funziona? Queste le slide sono prese un po' da Cashi, un po' da Cameralli, quindi vedete anche un po' un layout differente, no? Però di fatto il processo è lo stesso, è sempre quello. Ed è semplice, nel senso, poi se si avrà modo di dedicarci un'oretta intera, si possono raccontare proprio le storie che sono nate a Canigrati, così come le storie che stanno nascendo a Cascina, no? Però per farla breve, come si partecipa? Semplicemente si dà ai cittadini la possibilità di indicare delle proposte che vorrebbero che siano realizzate con le risorse del comune. Si fa attraverso una scheda perché ovviamente se si parte con le assemblee i cittadini non partecipano, se si parte con le schede magari il primo anno esce una partecipazione un po' così così, un po' superficiale, così così, però l'anno successivo siamo certi che la gente interessata, sapendo che percependo il potere deliberativo che ha in mano, l'anno successivo in assemblea sicuramente partecipa maggiormente. E quindi semplicemente dare la possibilità ai cittadini di indicare quali proposte, quali iniziative vogliono che siano realizzate nel proprio comune, con la semplice regola che le proposte più condivise fanno la differenza. Cioè, se voi già cittadini iniziate già un processo di aggregazione delle proposte, democraticamente inevitabile e scontato che quelle proposte poi sono quelle che andranno realizzate. Quindi c'è un incentivo già in fase di proposta di dire, beh, mettiamoci insieme, perché se io propongo all'amministrazione di tappare il buco della strada sotto casa mia, difficilmente quella sarà un'opera prioritaria, perché sarò soltanto io a votarla. Se invece ci organizziamo nel nostro quartiere, nella nostra città, per dire, bene, quest'anno decidiamo qual è la priorità, decidiamo che è importante abbattere il muro, il famoso muro, ci organizziamo, portiamo avanti questa iniziativa, saremo in tanti e quella sarà la prima cosa che chiediamo all'amministrazione, l'amministrazione farà. Poi l'anno successivo si ritorna magari a parlare di buche di strada, eccetera, eccetera. Però la regola, diciamo, il processo semplice è questo: dare modo comunque a chiunque di dare delle indicazioni, quindi l'amministrazione recepisce anche delle istanze singole, specifiche, e creare un meccanismo decisionale dove l'aggregazione la fa da padrone, cioè c'è un incentivo a riconnettere un po' il tessuto sociale. Queste proposte poi vengono. Queste proposte di fatto hanno, queste a Cascina, un elemento in più che abbiamo inserito a Cascina, cioè le proposte hanno anche un rappresentante, cioè quindi un concetto di delega che non è più una delega totale, per cui io voto il sindaco, voto i consiglieri perché faccio un tutto loro. No, io voglio portare avanti un progetto specifico nel mio quartiere, c'è un cittadino che lo sta facendo già da 10 anni, io do a lui sostanzialmente il mio consenso, il mio voto, perché nei tavoli deliberativi con gli altri cittadini che rappresentano altri progetti, altri quartieri, assieme si discuta come articolare le diverse proposte che stiamo portando avanti, magari per farne una che sia condivisa. Quindi magari immaginatevi due quartieri che vogliono piste ciclabili o comunque due parchi, se non si mettessero assieme sarebbero due proposte scollegate tra loro e quindi verrebbe meno l'aspetto comunitario, il bene comune. Ma se nel momento in cui si mettono assieme queste due proposte cominciano a dialogare, quindi per ricordare il discorso di Fiorello, l'aspetto del dialogo che è fondamentale, allora lì i due parchi magari potrebbero essere un parco nella zona di confine per cui creare uno spazio più ampio, così come le piste ciclabili, organizzarsi e farsi che sia un tracciato che attraversi tutta la città. Tutti aspetti che devono partire dal basso, perché è dal basso che è più facile non solo individuare quali sono i bisogni, ma soprattutto articolare i bisogni, costruirli, per evitare che tutto quello che viene dal basso poi sia espressione di interessi individuali o particolaristici che sono dettati magari dai media tradizionali che veicolano sostanzialmente altre esigenze rispetto a quelle comuni. Concludo giusto per stimolare un pochettino la curiosità, questi erano i risultati che abbiamo raggiunto a Canigrati, no? con questo metodo semplicissimo, no? di portare l'amministrazione nelle case dei cittadini con le schede, non portare i cittadini nel comune con le assemblee, e nonostante tutto fare comunque assemblea, perché nell'assemblea c'è il momento di conoscenza, di scambio, no? E quindi questi erano, diciamo, alcuni risultati che siamo riusciti a raggiungere, così come le tipologie di proposte, che è una delle paure più grandi degli amministratori, che se dà la parola ai cittadini chissà cosa propongono, no? E queste, diciamo, queste sono le semplici proposte che sono emerse a Canigrati. quando poi avremo le proposte anche di Cascina vi renderete conto, perché già vi sto vedendo sulle schede che vi ho raccolto, vi renderete conto di quante iniziative bellissime rivolte ai bambini e agli anziani. Non c'è un'iniziativa rivolta contro gli immigrati, contro altre persone, è tutte a favore di. Questo è l'aspetto più vero che emerge dai processi di partecipazione dal basso. Questo non lo garantisco, mio figlio non ce l'ho, non mi garantisco perché, però è sicurissimo, perché il problema è che quando le iniziative vengono dal basso sono sicuramente dettate dai bisogni, dalle necessità. Queste altre proposte che erano emerse, vedete appunto parchi, ristrutturazioni di marciapiedi, parchi, il campo di bocce per gli anziani, cioè tutte iniziative dettate semplicemente per i buoni sostanzialmente. Qui mi ricollego un pochettino a Portalegre per far vedere che cosa significa un processo strutturato per 20 anni su una partecipazione dal basso, cioè significa essere scelti come best practice dal governo, significa essere votato come il trasporto pubblico migliore del Brasile, significa raddoppiare, triplicare le spese rivolte ai servizi sociali, all'assistenza, alla manutenzione delle strade, quindi tutti i servizi essenziali che sono generalmente, in questo caso un paese in via di sviluppo, significa non avere mai nelle zone periferiche, averne in eccesso, ma avere nelle zone più centrali dove c'è, diciamo, la classe medio alta della cittadinanza. E questo poi è un'altra chicca bella di Canegrado, che è stata l'intenzione di Salvatore, cioè dire bene, aspettiamo prima di partire, facciamo vedere ai cittadini che quello che hanno deciso lo scorso anno è già realizzato, e poter distribuire una guida per dire quest'anno inizia il secondo processo di bilancio partecipativo, guardate quello che avete deciso lo scorso anno, lo stiamo facendo, anzi di più, seguite nell'evoluzione, perché questo è un aspetto in cui il cittadino non solo guarda la concretezza del processo, ma soprattutto impara anche i tempi necessari per l'amministrazione per realizzare un'opera, che è un aspetto fondamentale, perché pochi conoscono quali sono gli oneri degli amministratori e quindi le pretese magari sono sempre superiori alla possibilità, alla capacità di qualsiasi essere umano sostanzialmente. Quindi se io voglio un voto per la ristrutturazione di una palestra, molti cittadini dicono perché dopo un mese non è stata fatta? E questo è un modo per dire ai cittadini che questi sono i passaggi burocratici, è un modo per l'amministrazione per dire bene, impegniamoci a farlo nel più breve tempo possibile, e questo diciamo lo si può fare solo con un processo partecipativo, no? E per chiudere, che cos'è il bilancio partecipativo? È un metodo, no? È una mentalità ed è tanta volontà, significa che se non c'è una forte volontà spostare il processo decisionale dai tradizionali luoghi al basso, diciamo la cittadinanza, c'è lo sforzo, la volontà, difficilmente si può arrivare a fare un'invenzione come è stata quella di Portalegre, perché lo ripeto, il bilancio partecipativo è un'invenzione democratica, è stato definito così proprio da uno dei più grandi studiosi del processo, un docente dell'Università di Portalegre. È un'invenzione democratica che è nata da una necessità, da un'urgenza democratica, e da questa urgenza come tradurre certi principi di cittadinanza attiva attraverso questo strumento. Qui in Italia lo si fa in due fronti, ovviamente con gli amministratori virtuosi, e attraverso questi incontri in cui si parla, si spiega alla cittadinanza che c'è un altro modo di concepire la democrazia, e quindi questo è l'obiettivo. Questa è un'altra slide che avevo preparato per Cascio quando abbiamo fatto le prime assemblee, è un modo per dire attenzione, non concepite questo processo come un servizio, cioè come un servizio che l'amministrazione vi dà e quindi voi dovete pretendere che funzioni, cioè questo è un percorso, quindi un servizio dove gli errori, i problemi, le difficoltà devono essere condivisi, perché si sta sulla stessa barca, per cui cioè, ai cittadini si chiede aiutateci a rendere il processo più efficace, quindi segnalateci gli errori, vigilate, ma soprattutto aiutateci a migliorare sostanzialmente, perché deve essere concepito così, come un regalo, cioè una cosa che l'amministrazione ci dà alla cittadinanza perché lo coltivi direttamente, non sia concepito proprio come un servizio. Vi ringrazio per ricollegarci al discorso Facebook, però è un modo per tenersi al contatto. Non a caso poi parallelamente io ho creato anche una piattaforma wiki dove evitare quelle, le distorsioni di Facebook, cioè informazioni perse, però è un modo per tenersi in contatto e scoprire magari qualche iniziativa in giro per il mondo che fa le stesse cose che vorremmo fare anche noi. Vi ringrazio e... Grazie a Stefano Stortone, quindi Facebook era bilancio partecipativo. Sì, la pagina è bilancio partecipativo. La pagina è bilancio partecipativo. Due cose mi hanno colpito in particolare nella tua presentazione. La prima è che i cittadini hanno la possibilità di vedere un ritorno delle loro azioni, del loro voto. Qui ci sono, questo è importantissimo. Qui ci sono le schedine del comune di Canegrato dove si indicano le priorità che i cittadini vedono nel comune, qui sono schede analoghe anche per il comune di Cascina, le avrete anche voi. Il secondo aspetto che secondo me è molto importante, che è stato evidenziato alla fine della presentazione, è che si richiede un impegno forte da parte dei cittadini. Il cittadino deve smettere di lamentarsi e deve smettere di pensare che siano i politici a dover intervenire per risolvere i suoi problemi. Dall'altra parte deve smettere di considerare l'amministrazione comunale, il palazzo del comune come qualcosa di inavvicinabile, di lontano e di irraggiungibile, che come un gruppo, un palazzo che parla un'altra lingua e sta lontano dai cittadini. No, quelle persone che sono nel palazzo sono lì per servire i cittadini, quindi io mi posso rivolgere a loro direttamente, posso rivolgere a loro delle domande, delle richieste. Chiaramente se lo faccio in modo organizzato, come dimostra il caso di Canegrato e di altri comuni, ho la possibilità di ottenere dei risultati più interessanti. Io invito a parlare ora Salvatore Amura, che è assessore al bilancio e alla partecipazione del comune di Canegrato, e gli chiederei di spiegarci un po' più nel concreto come funziona il bilancio partecipativo a Canegrato, e gli chiederei di raccontarci anche qualche aneddoto per capire cos'è facile, cos'è difficile, quali sono le cose, i problemi più difficili che hai incontrato nel corso di questa esperienza. Poi avrei anche una domanda relativa a questi processi, vorrei capire se poi un impegno di questo tipo paga dal punto di vista elettorale. Io sarò abbastanza breve perché comunque sembra che il tema sia stato sviscerato in maniera decisamente alta, perché credo che sarà poi importante ascoltare quali saranno anche le indicazioni che ci fornirà il candidato sindaco Mario Lucini rispetto a come poi si vorrà declinare sicuramente una realtà più complessa come quella dei comuni di Como. Anche per fare un po' le pulci ai miei colleghi, intanto una domanda che mi sarebbe piaciuto fargli è: nella prospettiva di una enorme difficoltà economica in cui si troveranno i comuni e si troverà in particolar modo il comune di Como, quali sono gli scenari sostanzialmente di applicazione di processi di partecipazione complessi? E credo che questo sia un po' l'argomento poi centrale. Questo è un tema che abbiamo affrontato con il lavoro che facevo anche nella costruzione del programma di Giselle in Trozzi in maniera abbastanza approfondita, anche perché credo che alcuni parametri, tutti coloro che si vanno a candidare come consiglieri in questa sala, so che ce ne sono parecchi, credo che qualche parametro lo dovete avere. Il primo parametro è che il Comune di Como non ha presentato il bilancio di previsione, e lo fa scientemente naturalmente, non l'ha fatto in maniera casuale, non lo fa perché non è nelle condizioni di poterlo fare, perché evidentemente, poi credo che Mario Lucini ci aiuterà, visto che ha un'esperienza pregressa notevole insomma da questo punto di vista, e guardate che l'esperienza rispetto alle difficoltà che si andranno a affrontare è fondamentale, e la conoscenza degli aspetti. Non lo fa, non l'ha presentato semplicemente perché il carico fiscale e tributario avrebbe dovuto far pesare ai cittadini comaschi di tutta una serie di inadempienze di carattere politico, di scelte relative alle spese correnti, relative alle spese di investimento e così via, gli avrebbe comunque prodotto una apparente carenza di consenso abbastanza importante, anche perché c'è da applicare l'IMU e c'è da applicarlo sulla prima casa e sulla seconda casa. È vero che c'è il tema delle detrazioni del 50% per i figli, ma comunque i calcoli sono abbastanza importanti, si parla di 300-400 euro a famiglia di ulteriore carico fiscale, perché c'è il tema di servizi a domanda individuale, che vuol dire la repressione scolastica, i servizi per gli anziani, i servizi in genere per l'educazione, che è un altro tema che noi abbiamo trattato tantissimo, in cui naturalmente il Comune di Como è assolutamente insufficiente. Tanti come me sono costretti, o tanti come me che sono fortunati, ma anche che sono costretti a portare i propri bambini alla scuola privata come unica possibilità alternativa, perché tutti dobbiamo sapere che il Comune di Como non accetta neanche più le domande sostanzialmente per gli asili, perché non è in grado neanche più di compilare una graduatoria da due anni. C'è un tema poi relativo a quello che saranno i contratti pregressi che ci verranno lasciati da gestire, perché per esempio il tema delle paratie non è un tema così da poco, è un tema che lì ci sono dei contratti stabiliti con una società che ha vinto un regolare appalto, e nel caso in cui quel progetto andrà cambiato, modificato, integrato, bisognerà pagare delle penali, bisognerà aprire una trattativa con quella società, passeranno tanti anni, si passeranno in tribunale, insomma. Io non vorrei che Mario Cini facesse lo stesso errore che ha fatto in parte Giuliano Pisapia, perché quando tu partecipi a un contesto elettorale così importante, perché stavolta, cioè ragazzi, stavolta se come non ce la si fa stavolta non ci sarà neanche più, perché è tutto evidente che il centrodestra è assolutamente incapace di presentarsi in una qualunque maniera lontanamente dignitosa, perché mi sembra del tutto, come posso dire, così chiaro. La credibilità, un cittadino medio comasco che ha visto quello che è successo in questi anni e vede quello che succede quotidianamente dovrebbe essere minimamente schifato, insomma, da questi amministratori, da tutti i punti di vista, dal punto di vista etico, dal punto di vista della legalità, dal punto di vista della competenza, dal punto di vista di professionalità. Non c'è un punto di vista a cui a questa compagine gli si può riconoscere qualche cosa che sia lontanamente configurabile come un interesse verso la comunità, verso i cittadini. Per cui io, l'ho già detto anche in altri ambiti, starei molto molto attento, starei decisamente attento a quali sono le informazioni che si andranno a declinare, quali sono gli impegni e soprattutto quali sono le promesse. Le promesse in senso dell'accezione positiva della promessa, anche perché la campagna elettorale deve essere anche un po' un momento di passione, di trasportazione, di sogni. Credo fosse comunque doveroso fare questa premessa, che non serve per stemperare gli entusiasmi, ma serve forse per ricollocarli in un ambito di corretta interpretazione di quelle che poi saranno delle scelte di governo che io spero Mario Lucini con la compagine che lo sostiene si troverà a dover affrontare. A questo naturalmente ci sono una serie di aggravanti. L'anno scorso c'è stato un taglio dei trasferimenti diretti dello Stato, che è stato in una misura del 2,4-2,5%. Per capirsi, per un comune come quello di Canegrate, che ha una spesa di investimento, una spesa corrente verso, diciamo, i bisogni primari, servizi sociali, la scuola pubblica, eccetera, eccetera, eccetera, noi abbiamo circa 16 milioni di bilancio complessivamente, ne spendiamo circa 4 milioni e mezzo, 5 milioni verso questa direzione. L'anno scorso sono stati tagliati circa 250 mila euro di trasferimenti, quest'anno saranno qualcosa intorno ai 500 mila euro. E parliamo di un comune che in 5 anni ha rispettato il patto di stabilità, ha ricevuto la premialità di Regione Lombardia in quest'anno e ha i servizi a domanda individuale come copertura al 42%, cioè il più basso in tutta la provincia di Milano. Ciò vuol dire che 4 parti su 10 le pagano i cittadini, 6 parti su 10 le paga l'amministrazione. Se non erro, se ho letto bene i dati, il comune di Como è circa intorno. Esatto. Per cui un altro tema di aggravante che si andrà a porsi sarà ma minore spese di trasferimento e una necessità di livellare attraverso una rimodulazione delle fasce di reddito, delle soglie ISEE, dei bacini di utenza, in termini di quantità e qualità di servizi, ma quei servizi a domanda individuale andranno rimodulati. Quel tasso di copertura necessariamente si dovrà riequilibrare, se no nessun assessore al bilancio che affetta la Mario Lucini riuscirà sostanzialmente a tenere il comune in quadro. Bene, in questo quadro, che comunque è necessario sapere, perché se voi vi candidate come consiglieri dovete più o meno sapere che cosa vorrà dire domani andare a amministrare un soggetto pubblico. Come si diceva soprattutto con la professoressa Di Cinghio, che naturalmente sta affrontando in sede al Comune di Milano queste difficoltà, cioè un'amministrazione che ha creato nell'immaginario una grandissima attesa, una grandissima speranza di cambiamento e quant'altro, e poi invece si è trovata a discutere di che cosa? I tagli dei servizi, gli aumenti della tariffazione sul trasporto pubblico, di monetizzazione rispetto ad asset fondamentali di proprietà pubbliche come il sistema aeroportuale, eccetera, eccetera. Cioè, temi sensibili per una compagine di centrosinistra anche composita che è presente in questa sala. E io credo che questi saranno i temi, insieme appunto ai temi che menzionavamo precedentemente, cioè di quella gamma afferente ai servizi alla persona, delle politiche urbanistiche e delle politiche verso i beni comuni, che proprio in forza di tutte le difficoltà che abbiamo menzionato precedentemente, gli strumenti di partecipazione sono ancora più necessari. Cioè, l'insieme delle difficoltà e delle aggravanti non è che ti fanno dire beh, allora noi vinciamo e ci richiudiamo belli belli 6-10 assessori, 4 portavoce nelle liste, allora in 15 affrontiamo i problemi e cerchiamo di trovare le soluzioni. No, è proprio rispetto al fatto che le difficoltà saranno enormi che noi dovremo rendere in una piattaforma comune attraverso le... Noi qui oggi abbiamo analizzato alcune formule, per esempio il lavoro che abbiamo fatto con Stefano nel manuale del buon amministratore, che tra altre cose nasceva da una spinta anche emotiva molto forte, perché nasceva dopo il tragico fatto della morte del sindaco di Colina Vassallo, che era una persona semplice che in un territorio con delle grandissime opportunità aveva provato a fare delle cose di buon senso. Allora noi ci siamo detti, ma perché non raccontiamo delle storie romane? Allora ci siamo messi a studiare tanti casi e il caso di un comune della Melinese con un sindaco democristiano con nessuna spinta progressista, movimentista o stramba, insomma, che durante l'estate, visto che c'era un grandissimo arrivo di emigranti che lavoravano la terra, ha aperto tutte le strutture comunali e facendo in modo che questi ragazzi potessero utilizzare delle strutture al coperto, con delle docce, con degli spogliatoi, con dei luoghi protetti, anziché per esempio stare in degli accampamenti di fianco ai campi. Delle storie di consumo zero del territorio. Oggi è assolutamente all'ordine del giorno il tema del riuso, della riqualificazione, del recupero, di regolamenti edilizi che guardano un'efficientizzazione energetica molto forte, con un ruolo magari anche da general contractor da parte del soggetto pubblico, come avviene in tantissime ormai realtà comunali, dove naturalmente l'amministrazione contribuisce anche al risparmio da parte delle famiglie rispetto per esempio ad alcune gamme di consumo. C'è il tema del consumo critico, c'è il tema degli stili di vita, e abbiamo provato a raccontare un po' queste storie perché ci piaceva poter dire che la partecipazione si può declinare in tante forme diverse, ragionando di numeri, ragionando delle piattaforme condivise in cui si declinano tanti tipi di scelte sui temi del territorio. L'assist che faccio a Mario Lucini, che interverrà dopo, è che in realtà tante sono le modalità in cui si possono coinvolgere i cittadini. Però ribadisco e chiudo su questo: secondo me un tema è fondamentale in questa profonda e incomprensibile esagererei nel dire lontananza della politica e degli amministratori, sempre più lontana e sempre più distante la presenza degli amministratori locali e degli amministratori della cosa pubblica in genere, che sembrano avulsi dalla realtà, sembrano ormai dei soggetti, dei meteoriti che non vivono neanche più nel territorio dove noi viviamo quotidianamente. Io penso che il tema della partecipazione, del coinvolgimento dei cittadini, anche rispetto a quelle che saranno grandi difficoltà da affrontare, sarà indispensabile, perché questo poi, tra le altre cose, vorrà anche dire assorbire quelle energie, quelle competenze, quelle conoscenze che noi abbiamo in questa sala, ma abbiamo anche fuori da questa sala, abbiamo in tantissimi altri ambiti, che saranno assolutamente necessarie. Questo credo che è il compito che Mario Lucini debba e credo possa tranquillamente poter assolvere. E se noi riusciamo a segnare questa differenza, effettivamente il passo per il cambiamento di questa amministrazione, anche per un segno di una politica nuova anche in questa città, credo che sarà veramente vicino. Grazie Salvatore. Passare la parola al candidato sindaco Mario Lucini e poi a Giuseppe Monti per le conclusioni. Io aprirei ora il dibattito e chiederei al pubblico se ha delle domande da fare ai nostri relatori o delle osservazioni da considerazioni. Pietro. Allora, io ho avevo due pensieri rispetto alle proposte della partecipazione. Due cose in più, secondo me, che possono contribuire a dare ulteriore valore alla proposta. Primo, sono convinto che uno dei luoghi di abuso di potere dei processi di delega così spinti come quelli a cui abbiamo assistito sta nell'imporre un'agenda che sostanzialmente ai cittadini non interessa. Quindi, oltre al fatto, ovviamente, bisogna che la partecipazione porti poi a una scelta e una decisione, però vedo anche nel semplice valore di portare avanti delle problematiche, delle proposte che non sono nominate, che sono effettivamente quelle che stanno nella testa della gente, come qualcosa di molto importante. La seconda cosa è che stavo pensando, vedevo la fotografia di non so quale dei paesi in cui una delle proposte era mettiamo a posto un po' la stazioncina piccolina, no? Ecco. Un'altra cosa, secondo me, che può portare questi processi partecipati, non solo possono portare a individuare delle proposte che poi vengono assunte, ma anche a individuare, a mio parere, delle risorse che gli stessi cittadini possono essere in grado, in alcuni casi, di mettere in campo. Ora, sembra un po' la favoletta da film, per carità, la piccola comunità che sceglie, investiamo decidiamo di mettere a posto la piccola stazioncina e alla fine si raduna con il suo pennellino e se la mette a posto. Però è una favoletta, è ovvio. C'è un film carino che tra l'altro girato a Cuba, adesso non mi ricordo il titolo, che funzionava in questi termini. Però io sono convinto che le risorse, in un momento di mancanza di risorse, i processi partecipativi non solo devono portare alla decisione, ma devono portare anche alla messa in gioco delle risorse dei singoli cittadini. Perché ne hanno, perché le persone sarebbero ben contenti di partecipare anche fornendo dei servizi e non per forza attraverso delle consulenze milionarie, perché sono convinto che non è così. Ecco, queste due cose le volevo aggiungere. Sulla prima, molto interessante, lasciamo anche spazio per integrare l'agenda. La seconda era diamo spazio ai cittadini perché hanno delle risorse, ce ne siamo accorti nella fase di formazione del programma, con i gruppi del programma, io ho partecipato personalmente al gruppo Economia e Bilancio, sono stato stupito di quante risorse ci sono, di quante persone competenti che prima di iniziare a parlare di programma ci hanno fatto una formazione su varie questioni come il bilancio del comune, come funziona la macchina comunale, quindi questo effettivamente è molto importante. Se voi avete qualcosa da aggiungere su questo? Quest'ultima osservazione mi fa ricordare quello che è successo l'anno scorso in campagna elettorale a Milano, dove la situazione in qualche misura è stata esattamente questa, cioè la costruzione del programma di Pisapia è stata fatta in modo largamente partecipato, c'era l'officina, i tavoli. Devo dire francamente che oggi, a 8 mesi di amministrazione, si risente la fatica di dar seguito a quella idea di costruzione di un programma che allora era un programma di governo e ad oggi dovrebbe essere un'azione di governo in modo partecipato. Io non voglio tirare acqua al mio mulino perché faccio l'informatica, però è quello che sto cercando anche di dire al componente dell'amministrazione di Pisapia. Io credo che davvero la rete, da questo punto di vista, possa costituire una grande risorsa se usata opportunamente, senza pensare che sia l'elemento risolutivo. Però, per esempio, rispetto alla sua osservazione, cioè creare le condizioni non soltanto per segnalare i problemi, ma anche per fare in modo che cittadini individuali o gruppi riescano a portare elementi propositivi, in termini economici, ma anche in termini di proposte soprattutto e di competenze. Gli esempi concreti, non ho il tempo di mostrarli, però gli esempi concreti che noi abbiamo fatto vanno esattamente in quella direzione. A volte quello che è determinante però è l'accreditamento dell'amministrazione, cioè che l'amministrazione dica ci credo e sono interessato a raccogliere le proposte dei cittadini, che in un momento di crisi io credo sia davvero importante valorizzare. La rete consente di metterle in campo, perché voi avete il vantaggio di una comunità più ristretta, quindi magari riuscite ugualmente a condividerle, a farle maturare anche senza questo, però comunque la vita di oggi è abbastanza complessa da suggerire una condivisione che utilizzi anche le tecnologie di rete per poi fare in modo che possano essere ascoltate. Ci sono dei meccanismi che possono favorire, per esempio, di far emergere quelle più interessanti, quindi, per esempio, con prima una fase di elaborazione delle proposte e poi di votazione. Cioè, io credo che l'esperienza di, cioè, se hanno sperimentato a Porto Alegre, riusciremo anche a sperimentare qualcosa di nuovo nel mondo occidentale da questo punto di vista. E io dico che l'Italia in questo senso è in una situazione favorevole. Magari ci porta anche bene, se non crescono il 5%. E ci potrebbe portare anche bene. E l'Italia era in una situazione, come dire, di vantaggio da questo punto di vista, perché la cultura del municipio è una cultura che favorisce questo elemento. Quindi io penso che veramente, se ci fossero, noi stiamo cercando di fare un network tra le amministrazioni già elette, Napoli, che ha questa attenzione sui bilanci, sul bene comune, quindi cercare di fare un po' di rete tra, da una parte, le amministrazioni elette e dall'altra un po' di università che stanno dietro queste amministrazioni, perché non a caso l'assessore ai beni comuni di Napoli è un professore universitario che insegna anche alla Sorbona, la vice sindaco del comune di Cagliari è una docente di scienze politiche all'Università di Cagliari, quindi sembra che ci sia, posso dire, da tutti i tecnici, non ci sono soltanto, da una parte, un po' di competenze nelle nostre università forse potrebbero emergere anche per pensare questo cambiamento di cui c'è bisogno, magari insieme alle amministrazioni potrebbero forse veramente proporre qualche scenario innovativo. Ho visto delle mani alzate là, da Paola e Tonin e poi Marco. Volevo ritornare un pochino indietro nel discorso in questo senso. Premetto che sono d'accordo su tutto. Penso che nell'intercettare anche il consenso e comunque l'interesse per l'amministrazione dei nuovi cittadini e quindi dei giovani, un discorso che deve transitare attraverso l'informatica è fondamentale. Però vi volevo porre due temi. Questo, non c'è il rischio, o comunque quali sono i correttivi che avete previsto, di una sorta di livellamento verso il basso, visto che, diciamo, si distribuiscono queste domande su una quantità molto vasta di persone, nelle richieste. Abbiamo visto che, diciamo, le richieste sono piuttosto semplici, quindi qual è il grado di complessità che un sistema di questo tipo può prevedere. Proposte politiche forti continuerebbero a essere portate avanti dai gruppi politici e qual è il potenziale, diciamo, di questa attività di lobby dei cittadini aggregati tra loro e qual è il rischio di strumentalizzazione del consenso da parte delle persone che per esempio non sono al governo. Cioè chi non è al governo è un'opposizione importante che non starà ferma, quindi questo strumento a quali rischi anche espone l'azione politica? Grazie. Tonina? Sì, io farò una domanda. Dunque, la legge regionale 12 sul PCT prevedeva il processo partecipativo, prevede ancora, e nessuno ha ottemperato a questa norma. Cioè, né i sindaci hanno avviato processi partecipativi, partenose di PCT, informazioni, eccetera, eccetera, ma neanche le opposizioni, visto che si sono impegnate a chiederlo, a fare una battaglia politica all'interno del Consiglio Comunale. Allora, dato che il Comune di Como non ha ancora approvato il PCT, si può fermare tutto? E proprio in base al fatto che non è stato ottemperato una norma che era obbligatoria, fermare tutto e ripartire dalla partecipazione, anche così i cittadini potrebbero vedere quanto consumo di suolo c'è previsto in quello che questa amministrazione ha preparato, potrebbero anche, voglio dire, si potrebbero rendere conto di che cosa per la città è previsto in questo senso. Grazie, raccogliamo altre due domande e poi al primo giro di risposte. Marco? Sì, prima condivido la riflessione che rischiamo di vincere a Como, ma Salvatore ci ha spiegato che la sinistra può arrivare a vincere nel momento più sfigato. Questo rientra nelle leggi della sinistra. Si parla di partecipazione, è un metodo, si parlava di facilitazione, che è un termine che nei nostri dibattiti e anche nella costruzione del programma è venuto in modo forte. Volevo chiedere quali sono le competenze messe in campo per facilitare la partecipazione. Dico questo perché anche a sinistra spesso si cita partecipazione ma non si conosce poi il metodo in sé, cioè si ha in mente un approccio spesso assemblearistico in cui, che abbiamo sperimentato in tanti, in cui chi convoca ha già deciso, fa sfogare i cittadini e poi chi sta dietro la scrivania va a casa e sa già quello che vuole fare e si illustra di aver riempito una sala, ma in realtà non c'è nessun metodo. Visto che da anni ho fatto anche esperienze in processi partecipativi anche nel sociale, so quanto sia invece importante investire nelle competenze. Mi viene in mente detto non dare il pesce ma insegna a pescare, piuttosto che creare appunto una fase assembleare in cui il pesce decidiamo insieme come spendere i 4 soldi, ma poi dopo gestiamo tutto noi, anche creare dei facilitatori, delle persone che sono competenti per portare avanti i processi partecipativi. C'era una scheda del programma, poi quando uscirà la troverete, su cui abbiamo lavorato, che inizialmente si chiamava Idea Costo Zero, che però a me non piaceva. Come nome l'abbiamo richiamata il comune moltiplicatore di risorse. Cioè, creare le competenze con le persone che stanno fatto per andare a interpretare tutte le risorse che la città sa mettere in campo, e già oggi mette in campo, e fare in modo che queste facciano un sistema per rispondere a dei bisogni, è un'azione che moltiplica risorse, ma non è costo zero, perché bisogna investire piuttosto che nel fare l'azione, in senso il comune che deve investire in fare un'azione da zero, e invece che farlo da zero gli costa 100, farlo insieme ai cittadini con un certo processo gli costa 10, 20, 50, però quel processo deve gestirlo, e gestire quel processo in un modo che arrivi comunque a essere efficace, cioè non è uno stare insieme tanti mesi e poi non se ne fa nulla, e quindi torna quell'idea di partecipazione che ci fa perdere tempo. Tra l'altro, visto che noi abbiamo deciso c'è un detto: chi vuole andare veloce cammina da solo, chi vuole andare lontano cammina insieme. Di andare lontano non è detto che ci andremo per forza lenti. Chi conosce il processo partecipativo sa che in una prima fase sono lenti, ma quando la macchina comincia a funzionare non c'è nessuno che gli sta dietro rispetto ad altri. Quindi quanto sia importante questo tipo di competenza. Chiudo dicendo che, riprendendo a quello che diceva Pietro, oggi i cittadini in questa situazione di crisi, ma sempre di più con il welfare che non c'è più, non aspettano, sanno già che il comune non dà risposte e si attrezzano autonomamente per crearsi queste risposte. Quindi è importante che il comune vada non inventata da guardando, ma fatta andando a conoscere cose che i cittadini si stanno inventando per rispondere a queste risorse, a queste risposte. È una sorta di nuovo mutualismo che cent'anni fa ha creato un certo tipo di movimento. Forse la crisi sta portando a ricostruire degli spazi pubblici, non è più lo statalismo, non è più il privatismo, ma è una un po' più complessa, ma una collaborazione fra istituzioni pubbliche, istituzioni private, libri cittadini e tutti i cittadini. Grazie Marco, ultima domanda del primo giro, oggi è una domanda, una considerazione che innanzitutto stimolata dalla sottolineatura di Salvatore Mura, che quasi quasi induce molti dei suoi esempi a ritirare la loro candidatura al consigliere, perché vorrei assicurare tutti gli elettori qui presenti che ci abbiamo pensato bene, che lo sappiamo che affrontiamo una situazione di questo genere e che proprio perché la situazione è di questo tipo credo che la coalizione del centro-sinistra sia l'unica che possa assicurare ai cittadini una gestione dignitosa delle difficoltà che ci saranno, però dignitosa del futuro di questa città. Oh, poi volevo ringraziare tutti i relatori perché così questa puntualizzazione sugli strumenti e sulle esperienze credo che sia particolarmente importante per una città come Como, in cui siamo le mille miglia lontano da una situazione come quella che voi avete descritto. Giustamente Salvatore faceva presente una cosa che è veramente aberrante, il comune di Como che presenta il preventivo normalmente, ho scoperto, nel mese di maggio, cioè una cosa che nessuna azienda potrebbe permettersi. Presenta maggio, a luglio fa un primo assestamento e a novembre ne fa un altro che oltretutto segna degli scostamenti rispetto all'ultimo di 3 mesi prima, significativo, assolutamente rilevante. Quindi un comune che non riesce neanche a darsi degli strumenti di gestione indicativo di un non controllo della situazione delle finanze del comune stesso, forse anche per questo che appunto non c'è nessun incentivo a rendere pubbliche o a comunicare una situazione di questo genere. Un comune dove succedono le questioni che succedono nei lavori delle barriere per il lago e nessuno sa esattamente a che punto siano, perlomeno nessun cittadino normale, bisogna andarlo a scoprire, c'è una palizzata e non c'è sognarsi che ci sia un cartello che dice lavori iniziati, il termine dei lavori previsto per, sembra una cosa, quindi elementi informativi minimali. Tutto questo non c'è, quindi dicevo particolarmente opportuno questo vostro riferimento a quello che può essere fatto. Nello stesso tempo pensavo che appunto gli strumenti ci sono, la cosa che mi sembra fondamentale è che comunque ci sia una volontà, e questo è quello che è assolutamente lontano dall'essere la situazione attuale della nostra città, la situazione in cui la città è stata tenuta per tanti anni, ed è su questo che noi puntiamo, e quando dico noi puntiamo, il mio noi è riferito non solo ai candidati di tutta la coalizione, ma a tutti i cittadini, perché sarà necessario una costante azione di rincalzo da parte vostra perché poi dopo si riesca a introdurre cambiamenti così profondi. Ecco, allo stesso tempo io però ho un elemento di forte positività, perché un po' una contraddizione, ma proprio le difficoltà che sottolineava Salvatore, proprio la grandezza dei problemi che ci vengono lasciati sono tali per cui non c'è santi che tenga, o li affrontiamo ricorrendo molto di più al dialogo con la gente, alla costruzione del consenso, ad una verifica costante, oppure non riusciremo a fare niente. Noi avremo da fare delle scelte di priorità importanti, molto difficili, ed è proprio per questo motivo che avremo bisogno di dar vita ad un sistema di consultazione, di coinvolgimento e di partecipazione reale e profondo. Quindi, ripeto, mi sembra paradossale, ma è quasi la gravità della situazione, la lontananza da questa prospettiva che mi fa dire la dovremmo introdurre a tutti i costi. Quindi non sarà solo un fatto di volontà e di convinzione, e questo c'è indubbiamente fortemente presente anche nel programma della coalizione del centro-sinistra, ma ci verrà imposta dalle cose. La domanda rapidissima è questa: nella vostra esperienza, quindi noi non c'è dubbio che diciamo il centro-sinistra vince, le amministrative quest'anno, io su questo non voglio nemmeno avere un minimo di dubbio. Tutti dicono che le cose più importanti sono quelle che si fanno nei primi 100 giorni. Da questo punto di vista, qual è il vostro suggerimento per il nostro futuro sindaco Mario Lucchini e la coalizione che lo sostiene? Per i primi, neanche 100 giorni, per i primi 3 mesi di lavoro. Grazie Gisella, adesso passiamo al primo giro di risposte veloci. Accorpo le prime due domande. Rischio, allora, prima abbiamo visto l'esperienza di Cane Grate illustrata nelle slide, e c'erano le proposte dei cittadini che hanno ottenuto più voti, diciamo, no? I cittadini scelgono le loro priorità negli interventi del comune, e tra queste proposte c'era, adesso non mi ricordo bene, la ristrutturazione del centro sportivo, l'acquisto di nuove divise per la banda del comune, la costruzione di una nuova colciofila. Allora, giustamente arriva la domanda da Paola, che dice: non c'è forse un rischio di livellamento verso il basso nelle richieste dei cittadini in questo tipo di processo partecipato? Secondo, non c'è il rischio di strumentalizzazione da parte di chi non è al governo? L'opposizione si organizza, vota per proposte di un certo tipo e fa passare in un altro modo proposte che magari il comune non avrebbe fatto passare, se non sono interpretato bene. Chi vuole rispondere velocemente a queste due domande? Forse sono loro. Salvatore e allora, io mentre sentivo queste domande ho tirato via questa slide, perché rende un po' l'idea del bilancio partecipativo. Cioè, l'obiettivo non è il bilancio partecipativo in sé, cioè quella cosa per cui si prendono le schede, si fa, si raccoglie, un po' come il discorso che della democrazia, no? Per cui ma alla fine ha votato e quindi è giusto che si serve lo scopo del governo. La democrazia non è soltanto un'aggregazione in termini proprio di somma di preferenze, ma aggregazione in termini di costruzione delle scelte, no? Ora, se noi viviamo in un modello istituzionale anche, dove di fatto è la somma degli individui che poi fa le scelte, non privilegia lo scambio delle informazioni, delle idee, non privilegia tutti questi aspetti, allora succedono tutte quelle cose che diceva lei, no? Per cui alla fine vince chi magari ha accesso ai media, per cui riesce a comunicare maggiormente la sua proposta e la fa da padrona, no? Il stesso discorso della democrazia: non è sufficiente l'elezione, è sufficiente una legge sul conflitto di interessi, è sufficiente una libertà di informazione, tutti questi aspetti che, ritorniamo a quella slide lì, garantiscono delle infrastrutture comunicative per cui alla fine ci si scambia l'informazione. Quindi se una magagna, non è che io la posso mascherare con una cosa positiva. E quindi il discorso del bilancio partecipativo ha quella caratteristica, nella misura in cui ovviamente si inserisce tutto un aspetto complessivo, per cui è chiaro che io sono molto su questa cosa, sono molto intransigente. È chiaro che il bilancio partecipativo, che sia gestito in maniera discrezionale dall'amministrazione, poi ad avere determinati effetti negativi, per cui io dico: ma se i cittadini però poi così mi fanno vincere una proposta dell'opposizione, che faccio? Allora io faccio un processo partecipativo che controllo sotto sotto, perché ho paura. Allora il problema non sta nel controllo, sta nel creare una struttura, un processo che ci mette al riparo sia dalla volontà di controllo dell'amministrazione in carica e sia dallo stesso potere magari di un'opposizione, perché il problema non è né maggioranza né opposizione, il problema è come si forma il consenso. Per cui sia la maggioranza al governo che l'opposizione non al governo si utilizza dei mezzi di aggregazione non democratici, per cui io ho il potere e quindi gioco il mio potere sui cittadini, allora non c'è maggioranza opposizione che tenga, è sbagliato sia l'uno che l'altro. E allora lì il bilancio partecipativo deve partire da quei presupposti, dal presupposto che diceva Fiorella dell'importanza della rete, dell'importanza di una neutralità, come il discorso della piattaforma che non può essere gestita dall'amministrazione. Che io noi per esempio a Canegrande, a Cascina, uno degli aspetti fondamentali è la neutralità. Cioè, a Canegrande i risultati dei voti parziali che io volta per volta raccoglievo non lo sapeva né il sindaco né l'assessore, lo sapevo io e basta, no? Perché loro hanno scelto di dare un... come si fa lo spoglio, no? Poi siccome si lavora sulle schede, su internet, è ovvio che lo spoglio tu ce l'hai volta per volta, no? E quindi devi cercare di tutelare. Ma perché deve essere un gioco alla pari? Perché non è un gioco da maggioranza e opposizione, è un gioco dei cittadini. E quindi se qualcuno in quel processo lì di relazioni ha un potere superiore, già si distorce tutto il processo. Quindi non so se ho risposto alla domanda. Sul discorso dell'assemblearismo, quello è stato uno dei, secondo me, dei limiti più grandi che ha tappato le ali alla partecipazione nei primi anni di 70, nella prima fase di partecipazione in Italia e nel mondo. Cioè il fatto che, sì, vabbè, tutti assieme, come per dire, se siamo in 1000, siamo in 100, siamo in 10, siamo a prendere una decisione. Non è vero, cioè ci sono proprio studi che dicono che i processi deliberativi si fanno un po' con poche persone, con delle tecniche, quindi è importante. Ovviamente un processo democratico non può, era partire dal presupposto che decidano 80 persone, perché 80 è il numero perfetto dove si è visto a livello scientifico che si riesce a dare una decisione. Allora lì subentrano alcuni aspetti che sono, più strutturali, processuali, per cui tu dici bene, comunque sia devo votare tutti, no? Allora cosa ad esempio un discorso, una cosa che abbiamo fatto e poi concludo con la tecnica appunto che questo processo, il bilancio partecipativo, è anche per ricollegare al discorso del potere delle associazioni, delle lobby, no? Cioè, nella prima fase di raccolta che cosa succede se a Canegrande e a Cascina? È normale che le associazioni la fanno da padrone, perché io ho una scheda bianca, no? Un cittadino non sa che proporre perché proprio parte da zero. Un'associazione già c'ha il suo progettino che non vede l'ora di portare, o lo porta direttamente all'assessore, o se non arriva l'assessore lo porta ai cittadini e dice firmami questo progetto, e capita. Capita che associazioni hanno già il progetto di ristrutturare il campo sportivo, no? Il centro sportivo, la scheda la precompilano, la mettono nella stampante e ci mettono già la denominazione del progetto e vanno ai cittadini come una raccolta firme, firmano questo progetto. Qui cosa succede? Che chi inizia primo, chi ha più organizzazione riesce a raccogliere più schede. E allora succedeva, lo faccio vedere subito nelle slide perché è curiosa questa cosa, succedeva che nella prima fase è normale che sia così, però se noi, se per esempio, allora è un discorso di un processo completo, se noi ci limitassimo a fare un bilancio partecipativo dove vengono realizzate le proposte che sono le proposte più condivise durante la prima fase, allora siamo certi che vinceranno sempre le proposte delle lobby più organizzate, sempre. Allora, che cosa fai? Tu la prima fase fai le proposte, la seconda fase, quella di votazione, tu metti assieme tutte le proposte che sono emerse, con un lavoro sia di aggregazione che di organizzazione, perché tu metti assieme la proposta dell'associazione che ha raccolto 200 schede nella prima fase e la proposta magari di una strada, magari di 30 cittadini che hanno detto ma perché invece non ristrutturiamo la scuola? 30 cittadini su 200, intanto nel frattempo cerco di farmi vedere qualche dato, e di fatto quando poi in questa fase un cittadino si trova davanti non più un foglio bianco dove chi è il primo che gli fa la proposta e gli sembra ragionevole dice ma perché no, ma davanti ha delle alternative, allora lì quello è un meccanismo, un metodo dire no, caspita, però io ho proposto, ma ho fatto firmare la ristrutturazione del centro sportivo. Però caspita, se io devo scegliere tra il centro sportivo e la scuola dove vanno i miei figli, io scelgo la scuola. Cioè non c'è presidente dell'associazione che regga da questo punto di vista, perché si sta lavorando non sulla delega, ma su una scelta diretta di priorità. E questo è un piccolo metodo, giusto per fare un esempio, ovviamente non completa tutte le problematiche. Un'altra problematica di Cascina è quella di che c'era a Canegrata, è quella di rendere le proposte delle persone non in comunicazione tra loro. Quindi cosa abbiamo fatto a Cascina? Abbiamo messo una semplice voce, vuoi rappresentare la tua proposta, per cui se io sono un cittadino non organizzato e vedo che alla fine della raccolta proposta ci sono 50 cittadini non organizzati, che non si conoscono tra di loro, che hanno fatto tutti la stessa proposta, allora io amministrazione, con un ruolo di facilitatore, di sussidiare veramente nel vero senso della parola, cosa faccio? Metto queste persone in rete. Gli dico, guardate che voi siete 50, che voi fate tutti quanti la stessa cosa. Se voi vi organizzate un pochettino, magari riuscite a fare una proposta che veramente esprima tutti, gli interessi di tutti. E quindi questo è un altro metodo per favorire non il bilancio partecipativo, né i beni comuni, né cose, ma semplicemente la relazione tra le persone, perché solo se c'è relazione tra le persone si può evitare quello che è il danno dell'Italia degli ultimi 30-40 anni, cioè il fatto che le relazioni sono state praticamente non più rese orizzontali ma verticali, cioè per cui i cittadini hanno preso tutte le informazioni dalla televisione e da altri organi e non più attraverso uno scambio ragionato tra di loro. Questo è. E poi finisco il discorso, quello carino di Pietro, del fatto dell'aggregazione, anche lì. Cioè, non necessariamente il bilancio partecipativo significa, perché sarebbe la morte di questo processo culturale, il cittadino che dice all'amministrazione cosa deve fare. Sarebbe la morte se fosse concepito così, perché sarebbe ancora di nuovo una delega. Io ti dico, non dico fai tu, ma un pochettino più democratico io ti dico fai questo, no? Però è sempre un problema questo, perché noi dobbiamo partire dall'auto-organizzazione. Quindi col bilancio partecipativo generi già un'auto-organizzazione sulle proposte. Però che sì, che non significa che se la proposta di 50 cittadini che chiedevano di ripitturare la scuola non passa il primo anno, non passa il secondo anno, dicono sai cos'è? Intanto ci siamo conosciuti. Invece di essere tre, se diventate 50, facciamo una colletta, ce la pitturiamo noi. È una banalità. Però se non ci fosse un processo di aggregazione, di relazionamento tra le persone, non potrebbe mai accadere una cosa del genere. Piccoli esempi di metodo. Grazie Stefano. La terza domanda che ha fatto Tonina era la legge regionale 12, il PGT, il processo partecipativo che non è stato rispettato. Si può fermare tutto e ripartire dalla partecipazione? Io ne approfitterei per chiederlo al candidato sindaco Mario Lucini, che quindi ne approfitta per presentarsi e per dirci anche, visto che hai preso appunti tutta la sera, quali sono le idee migliori che porti a casa stasera. È vero, tanto sono qui, va benissimo da qui. Ho trovato molto, molto interessante la serata, perché sicuramente si tratta di esperienze significative, importanti, e che abbiamo tutti insieme deciso che fossero un percorso da sperimentare e da introdurre anche nella nostra città. Poi Salvatore mi ha fregato tre quarti delle indicazioni sulle difficoltà del momento, che credo mi consentano di dire che probabilmente il primo bilancio che faremo non sarà partecipativo, perché dovremo farlo senza sapere nulla entro il 30 giugno, per cui credo che in questo caso sarà un po' difficile. Sicuramente è gravissimo il fatto di non avere gli elementi per decidere su tutte quelle questioni dall'IMU ai servizi, alle tariffe. Stiamo attivandoci per andare a caccia di dati, visto che quelli ufficiali non ci sono, almeno avere dalla ragioneria gli elementi sostanziali per capire a che punto siamo, perché è risaputo che da che mondo le amministrazioni uscenti fanno il bilancio in campagna elettorale, anche perché si fanno la campagna elettorale col bilancio. Il fatto, come diceva lui, che non l'abbiano fatto è chiaramente significativo della condizione per cui non si sarebbero fatti campagna elettorale, ma avrebbero dovuto dire aumentiamo le aliquote dell'IRPEF oppure tagliamo questo e questo e quest'altro servizio, per cui questa è l'unica ragione per cui non c'è. Per cui questo è sicuramente un problema. Io devo dire che sono d'accordo con quelli che hanno detto che comunque nelle difficoltà, è un po' il tratto di noi italiani, ma comunque credo in generale, nelle difficoltà in genere è più facile mobilitare le risorse, è più facile anche riscoprire uno spirito comunitario. Adesso metto un esempio banale che non è del tutto, che potrebbe essere fuorviante se viene interpretato in termini di settorialità, ma se si coglie come esempio generale può essere significativo, con la storia del Palazzo del Ghiaccio. Se ne ricordate la chiusura ventilata del Palazzo del Ghiaccio, hanno organizzato tutte le società che utilizzavano quello spazio una grande manifestazione una domenica pomeriggio dove sono intervenute tutte, e io a un certo punto mi sono fermato a parlare con qualcuno di queste associazioni e ho detto che bello che vi siete trovati tutti, ma andate sempre così d'accordo quando c'è da usare gli spazi? No, è stata la prima volta che ci ritroviamo tutti insieme, perché di solito litighiamo sugli spazi. Quindi ecco, per dare l'idea che secondo me questa leva deve essere importante non tanto per l'amministrazione ma per tutti noi. E mi piaceva l'espressione di nuovo mutualismo che diceva Marco, che ha citato Marco prima. C'è sicuramente la necessità e l'opportunità anche di individuare, al di là di queste esperienze, su cui volevo dire poi un'altra cosa, forme di partecipazione, di collaborazione tra cittadini e amministrazione che sono possibili in tanti campi, dalla corresponsabilizzazione della gestione degli spazi pubblici, dalle convenzioni con le associazioni sportive per venirsi incontro tra utilizzo degli spazi e resa di servizi, per cui ci sono tanti margini di collaborazione, di compartecipazione che consentono di vivere di più la città e la responsabilità e anche magari di superare dei momenti di difficoltà in termini economici. Mi interessava molto capire le risposte sui meccanismi, perché i rischi che citava lei me li sono posti anch'io, sul come il processo controlla le distorsioni che possono essere indotte da azioni di lobbying, no? Oppure alcune cose sono state dette, ma poi studierò, magari mi darete della documentazione, azioni di lobbying che non possono essere semplicemente riconducibili a attività di associazioni o di gruppi particolari, ma vorrei capire anche come si controlla e si media il discorso lobbistico dal punto di vista localistico, cioè in una città fatta da tanti quartieri, se ci sono opere da realizzare, è chiaro che un quartiere più popoloso, al di là, sicuramente, so che questi problemi sono stati considerati, quindi sono sicuramente, ci sono i meccanismi correttivi per bilanciare, però è interessante capire come vengono gestite queste cose per rendere effettivamente vera e efficace la partecipazione. Dal punto di vista del discorso economico devo dire che ricordo, sto saltando un po' di palla in frasca, però noi abbiamo tre grandi opportunità in questo primo anno amministrativo che affronteremo, che ci dovrà essere il rinnovo del contratto di gestione dell'energia, della fornitura di energia, il bando per la raccolta dei rifiuti e il trasporto pubblico. Quindi sia dal punto di vista della risistemazione dei servizi, sia dal punto di vista anche del recupero di qualche risorsa, perché credo che soprattutto sul contratto per la fornitura di energia c'è margine per dare anche l'impulso di interventi che diano respiro alla città, si può giocare una parte significativa della partita. Sul discorso del PGT si tratta solo di capire cosa farà. Allora, i casi sono due: se non viene spostato il termine del situazione provvisoria e poi una, con una ridiscussione di tutto quanto. Sicuramente se c'è margine per riattivare i processi saranno attivati. Spererei che almeno all'interno nostro, anche so che è un po' un nostro male quello dell'autofustigarci, che si sapesse distinguere tra il ruolo della maggioranza e dell'opposizione. L'opposizione non può attivare un processo partecipativo su un piano di governo del territorio che non ha in mano e che gestisce chi amministra la città. Per cui, francamente, mi spiace che venga fatta colpa alla minoranza di non aver aperto processi partecipativi su un documento che negli uffici... Non avrei parlato in generale di quella provincia. No, beh, ma certo, no, ma siccome adesso io ho detto, ma siccome è uscito da altre case, in altri casi, i documenti sapete benissimo che non sono disponibili, sono chiusi nei cassetti, sono elaborati dagli uffici dei professionisti, ma quando riusciremo ad averli o quando avremo la responsabilità di gestirli, sicuramente attiveremo dei processi che sono quelli previsti dalla normativa, non solo perché lo prevede la normativa, ma perché riteniamo che siano i processi che debbano essere attivati. Grazie Mario. Allora, ci sono due domande che non sono state risposte, per la quale chiedo una breve risposta. La prima era quella sulle competenze, i facilitatori nell'applicare gli strumenti di democrazia partecipativa, e la seconda era quella sui consigli dei primi 100 giorni. Se qualcuno se la sente, chi vuole dare velocemente una risposta sui facilitatori in particolare? Secondo me sì, in qualche modo la risposta c'era nella domanda, ho avuto questa impressione, nel senso che tutto il ragionamento alla fine era la partecipazione va progettata e quindi in effetti credo che questa sia la chiave, cioè ma l'esperienza di bilancio partecipato in fondo dice questo, cioè al di là di un contesto che è quello più di cui vi ho parlato io, cioè di un contesto di creazione di una fiducia condivisa, di un trust, di un'abilità, di dialogo e così via, che pure ha un processo di facilitazione forte, anche attraverso la rete. Poi il processo di partecipazione, perché possa essere produttivo e efficace, deve essere progettato attraverso una successione di fasi in cui si riesce a mettere a posto, a evitare processi che non desideriamo e in cui si impara dall'esperienza, perché l'anno successivo si evitano i problemi dell'anno prima. Quindi secondo me non c'è una ricetta in realtà. Però anche il primo anno si può partire con le competenze, certo, si può inventare da zero. Certo. Come la storia l'hanno fatta anche con la moda, così le competenze. Io inviterei, visto che si è fatta la certa e la gente sta giustamente piano piano deduendo, inviterei Giuseppe Monti a chiudere l'incontro facendo un po' la sintesi di tutto quello che si è detto stasera. Più di una sintesi, io penso che bisogna fare una valutazione di alcuni elementi di novità che sono stati introdotti in questa campagna elettorale proprio dai cittadini. Io penso che nella storia della Seconda Repubblica e delle forze politiche della Seconda Repubblica a Como, quindi da qualche lustro, non si era mai vista una partecipazione che è stata ricordata nel momento della consultazione per la predisposizione delle scelte programmatiche, ma anche prima è stato importante secondo me, perché anche dal dibattito di questa sera è un portato delle iniziative che i cittadini si sono dati fin dal luglio o giugno dello scorso anno in serate afose, quando sostanzialmente il comitato delle primarie vere si è costituito, questa volta non come movimento di facciata provvisorio, ma come un dato che ha, diciamo, importante, vi è stato un intervento di un gruppo di cittadini diffuso sul territorio, io penso che forse Lilia poteva, dal punto di vista anche numerico, perché lui conta sempre, mi dice, quelli che vengono in tutte le riunioni, e dato anche che le riunioni hanno avuto partecipazione di pubblici diversi, io credo che questo sia il primo elemento forte di novità. Poi mi è piaciuto anche il fatto che al di là della, diciamo così, dibattito, articolazione, discussione che c'è stata, in cui uno dei temi fondamentali è proprio il tema di questa sera, perché è stato posto più volte, la partecipazione non in astratto, in teoria, ma sostanzialmente individuare dei canali formali, e stasera si è fatto riferimento che il bilancio partecipativo si intende come un procedimento amministrativo che addirittura potrebbe essere inserito come elemento vincolante anche dal punto di vista della legittimità degli atti. Ecco, mi è anche piaciuto il fatto che vi sono state anche scelte diverse, anche nel momento in cui si sono formate delle liste, non si è fatto tutto in termini democratici, aperti, liberi, secondo quello che è stato detto questa sera. E il dato nuovo naturalmente dice c'è questa situazione perché ci sono delle cause. Allora, una delle cause che io vedo, e in città c'è un senso comune che è diffuso secondo me, è la consapevolezza che si è passati dalla prima repubblica dei partiti di massa ad una difficoltà ed uno svuotamento dei partiti di massa nella fase finale della prima repubblica, a dei partiti cosiddetti leggeri, e poi dai partiti teorizzati come leggeri si è passato, soprattutto sul versante del centro-destra, e questo è il punto che una parte dell'elettorato, che non ha mai votato il centro-sinistra, però ha acquisito senso comune su questo punto, che questi, diciamo così, partiti leggeri sono diventati dei comitati elettorali, che quindi si attivano verso i cittadini soltanto nel momento della raccolta del consenso, e nella fase intermedia, questo è quello che ho percepito nei rapporti, nei contatti con i cittadini, e mi sto riferendo proprio ai partiti di centrodestra, sono stati alcuni giovani che, mossi da idealità che non sono le nostre, quelle prevalentemente rappresentate qui questa sera, hanno affrontato la situazione della realtà dei partiti del centrodestra, soprattutto del partito più importante, e mi hanno detto, più di uno, siamo andati, abbiamo aperto la porta, siamo entrati e abbiamo visto che da un'elezione all'altra sostanzialmente il partito è un comitato d'affari. E l'altra cosa che si è diffusa in città e sta prendendo diciamo coscienza non solo in chi ha dei ruoli istituzionali molto precisi, che sono magistrati, sono poliziotti, ma sono anche professionisti, voglio dire gente che opera, imprenditori, è che in questa fase di vuoto politico, perché operano sostanzialmente o hanno operato prevalentemente nei comitati d'affari, gli inquinamenti della delinquenza organizzata di provenienza calabro e adesso mi si dice anche campana, in città, in questo momento di crisi, abbiamo a che fare con la presenza sempre più massiccia di acquisti, non del barretto di periferia, io l'ho già detto in qualche forse altra riunione, ma lo ribadisco perché poi questo fenomeno sta andando avanti sempre con maggiore, diciamo, consistenza, interventi nei settori che sono quelli proprio imprenditoriali o nell'acquisto di proprietà che sono legate ad alberghi e ristoranti importanti anche della nostra città. Cioè, quindi l'amministrazione del centro-sinistra ha, diciamo così, avrà a che fare con una realtà difficile, problematica, anche perché il retroterra socio-economico e più complessivo di convivenza civile della città è assai diverso da quello che era stato la connotazione di Como. Mi riferisco soprattutto alle esperienze delle giunte Gelfi e delle giunte Spallino. Noi ci troviamo quindi in una situazione di questo genere molto complessa. Io credo che il significato comunque anche della riunione di questa sera, e che ripeto è l'elemento di novità che ci deve far guardare con un certo ottimismo alla campagna elettorale e poi all'esito della campagna elettorale è che mai, io credo, nella nostra città c'è stata questa mobilitazione di cittadini. L'importante è canalizzarla, anch'io ho sentito questa sera con grande interesse le relazioni che ci sono state presentate. Ecco, si tratta poi di capire come dalla partecipazione si può arrivare alla sintesi politica in un momento difficile come questo, dove Mario Lucini e Salvatore Amore ci hanno chiaramente detto che ci sono anche delle scelte sostanzialmente che sono obbligate e che non vanno purtroppo nella direzione che noi vorremmo che avesse la prospettiva politica del centro-sinistra. Comunque io penso, bisogna attivarsi per combattere i nostri avversari politici tenendo conto anche di questo senso comune che si sta diffondendo nella nostra città, che è un fatto del tutto nuovo.